La formazione non ve la posso dare perché non lo so neanche io. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dentro per Insigne, posizione regolare, pesca l'angolino dopo 42 secondi, sblocca la partita del secondo tempo, il Napoli con Lorenzo Insigne, il suo fenomeno è lui, 1-0. In area di rigore Kalinic, e il gol dell'1-1, alle spalle stavolta di Koulibaly. E palla per Higuain, palla persa da Ilicic, Higuain! Ma io che vi racconto? Claudia Schiattone, la nostra autrice, c'è Giampaolo Colleoni in regia. E poi qui oggi avremo Lapo, avremo Moggi, avremo il Premier Renzi, avremo Serse Cosmi. Già ve lo dico, eh? Ma parleremo di tutto, a cominciare dai risultati e dalla partitissima che, come avete sentito, il Napoli ha vinto 2-1 con la Fiorentina, con i gol dei due più forti attaccanti del campionato in questo momento, cioè anzi dei tre più forti attaccanti del campionato in questo momento. Mettiamoci anche Kalinic, autore del gol del 2-1. Ha segnato Insigne, ha pareggiato Kalinic, ha dato la vittoria al Napoli Gonzalo Higuain. Altri risultati a ora di pranzo: il Palermo che ha vinto 1-0 a Bologna, Bologna sempre più in crisi nera, 1-0. L'Atalanta ha battuto 3-0 il Carpi, il Frosinone ha superato 2-0 la Sampdoria, chissà cosa dirà Ferrero. Cosa dice Ferrero? Ma te che te frega, eh? Ma vedi anche andata a rompere scatole in un pomeriggio nefasto, eh? Grazie. Cioè, forza Samba, sempre e comunque, eh. Anche se si perde 2-0 a Frosinone, ma chi se ne frega, ma cediamo, togli te cravattella, togli. Cediamola, tanto cediamola, stiamo cedendo la società, no? A Volpi. Vabbè, questo non è importanza. Questo lo dicono tutti. Ma che tu dica fa? Va bene. 800 24 0024 è il numero verde per intervenire. Cosa devo fare per fare un'audizione con Pini Insegno? Devo mandare una registrazione, scrive un nostro amico, non lo so. Non saprei cosa deve fare. Pino, non c'è oggi Pino Insegno, glielo chiederemo. Comunque, Frosinone batte Sampdoria 2-0, il Genoa in 10 in inferiorità numerica subisce il pareggio del Chievo 2-2, ma poi riesce a vincere nel tempo di recupero tra due gol di Taxidis. Come detto, il super match del sorriso, come l'ho definito per due settimane, perché due settimane che aspettavamo questa partita, che è durata tantissimo, è finita dopo le 17, perché a Napoli bisogna pettinarsi bene, toccare i santini, uscire bene dallo spogliato. Morale, è durata un'eternità questa partita, però il Napoli l'ha vinta 2-1. Il Sassuolo, per la gioia di Pino Insegno, ha battuto 2-1 la Lazio. Verona Udinese è terminata 1-1 e questa sera, se nel pomeriggio c'è stato il match del sorriso, questa sera invece ci sarà quello della paura, perché c'è un Inter Juventus che molti dicono vabbè, ma siamo a ottobre, inizio campionato, però chi perde questa sera è perduto. Fiorentina che mantiene la testa della classifica con 18 punti nonostante la sconfitta, ma potrebbe essere superata dall'Inter che di punti ne ha 16 e deve giocare stasera. Secondo posto per la Roma che ieri ha vinto 3-1 con l'Empoli, 17 punti. Quindi Inter 16, Napoli e Sassuolo e Lazio 15 punti, Torino Atalanta 14, Chievo 12, Sampdoria 11, Palermo, Genoa e Milan 10, Juventus al momento 8, Udinese 8, Frosinone, Empoli 7, Verona 5, insieme al Carpi, Bologna 3 punti, ultimi in classifica. 8-0-0-24-0-0-24. Il Napoli ha giocato una grande partita, bisogna dire la verità, ha giocato una grande gara contro una eccellente Fiorentina. Sono emersi i grandi attaccanti di queste due squadre. ha segnato Higuain il gol della, della vittoria. Ciao Ciccio, ciao Ranni, ciao ragazzi. Che c'entra Premier Renzi adesso? Salutate la capolista, salutate la dopo. Capolista. Vediamo dopo. Se ne va, se ne va. Ma chi se ne va? La capolista se ne va, siamo la sempre in testa. La capolista è rimasta ferma, Ciccio. Fa il bravo. Ma siamo sempre in testa. Ho capito. Stasera se l'Inter batte la Juventus siete secondi, mio caro Mr. Premier. Intanto devono ancora giocare. Oh, sto scherzando, non sto mica gufando, eh. Pino, Napoli, buongiorno. 800240024, numero verde. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Pino. Ciao a tutti, ciao. Pier arriva dopo. Pier arriva tra una mezz'ora. Dimmi. Va bene, ciao. Comunque uno scandalo assoluto l'arbitraggio di Napoli-Fiorentina, caro Carlo. Non so se hai visto una partita, ma veramente una cosa vergognosa. Io poi non capisco sta storia che quando giochiamo con le toscane ci mandano il toscano. Già è capitato a tempo uguale. Senti, uguale. Ma di che ti lamenti? Di che ti lamenti che avete vinto? Cosa? Di che ti lamenti? Ma che no, ma guarda, è stato eroico il Napoli oggi, perché ha dovuto battere anche l'arbitro, e non è retorica, non è dietrologia, non è qualunquismo. Praticamente c'è l'espulsione di Roncalli, non l'ha espulso. Nel primo tempo una regola del vantaggio clamorosa non l'ha data. Un rigore su Higuain con espulsione del portiere non l'ha data. Che cazzo altro doveva fare l'arbitro? Cos'altro doveva fare? Secondo me facciamo le riforme e si risolve tutto. È arrivato il Premier che vuol fare riforme. Ma veramente, guardate, riguardatevi gli highlights. No, ma ascolta, cose veramente no, una cosa Pino, fattica, però ascolta, guarda, ascolta, isoliamo i singoli episodi. Poi, vabbè, cazzo, sono 3-4 però. Sono 3-4, ma il Napoli comunque ha vinto questa partita. Alla fine ho detto Napoli batte Fiorentina e Banti 2-1. Napoli batte Fiorentina e Banti 2-1. Ma sì, sì, ma è vero, guarda, ma non sto dicendo una stronzata, caro Carlo. Vatti a vedere la partita e vedi che è così. Va bene. Comunque, ma l'ho vista. L'ho vista insieme altro a tutte le altre. Però veramente ha fatto di tutto per dirigere la partita a modo. Lasciamo stare Banti. Napoli. Aspetta. Pino, lascia stare Banti. Il Napoli vince il campionato? Vediamo, è ancora lunga, Carlo, come si fa a dirlo? Dai, su, adesso per sbilancio. Certo, se fanno qualche innesto importante a gennaio, secondo me non ce n'è per nessuno, quest'anno. Ah. Speriamo, insomma, il mio magari sarà un eccesso di ottimismo, ma Sollazzo, Boris Sollazzo. Boris, io faccio fatica a tenere il cellulare. Boris Sollazzo, di quella parola. Non la dico. Dilla. Se non dirlo, io l'ho detto, faremo 80 punti o giù di lì, vedremo se basta. Abbiamo anche il presidente De Laurentiis? Non ce l'abbiamo, presidente De Laurentiis. E se non vi passa il Premier? Ragazzi, qua stiamo andando maluccio, però, Allora, Boris, fammi una fotografia della partita, perché Pino da Napoli dice: abbiamo battuto la Fiorentina e Banti. Guarda, se ti ricordi, io l'avevo detto che secondo me gli arbitracci di questo inizio campionato non erano granché nei confronti del Napoli. Il punto è però, e questo vale anche per il Napoli di Benitez, che il Napoli con gli effettivi che ha, quando gioca alla grande, e adesso sta giocando alla grande, non si deve preoccupare neanche degli altri. Se gli altri giocano in 12, pazienza, non è un problema. Non mi è sembrato così scandaloso. Stai facendo polemico? No, l'avevo detto, io mi preoccupo di quando il Napoli non sarà così in forma e se continueranno a essere questi gli arbitraggi, il Napoli a casa non se la porta. Però sai come dicono quelli bravi? Che nelle squadre in forma segnano gli attaccanti. Insigne, miglior giocatore italiano in questo momento, che non doveva giocare, non ha giocato in nazionale, però poi è tornato a Napoli, ha preso una boccata d'aria fresca e oggi è ovviamente andato in rete. E Gonzalo Higuain, quando segnano gli attaccanti vuol dire che le squadre sono in forma. Sì, vuol dire che fanno quello che si deve fare. Quando segnano difensori e centrocampisti, no, però quando segnano magari difensori o si segna sui falli da fermo, spesso è estemporaneo. Se segnano gli attaccanti vuol dire che i moduli hanno fatto il loro. Il punto è che secondo me la Fiorentina è una grandissima squadra, che tu la batti anche perché fai un'invenzione al 40° secondo del secondo tempo, quando ancora non è permessa, e anzi che si inventa un assist straordinario e insegna un gran gol, sì, e che va in vantaggio due minuti dopo grazie ai Wayne e Mertens. Mi dispiace molto per l'infortunio di Mertens, perché è un giocatore importante, però è una squadra con cui che si è mangiato un gol non da poco. No, per carità, assolutamente. Se vedi l'assist di Ilicic e Kalinic, che è veramente un giocatore straordinario per come sa interpretare il modulo di Sousa. Devo dire, Sousa è un grandissimo allenatore. Questa sconfitta. Che gol, Lorenzini Insigne, però. Che aveva detto Garcia. Che gol, lo sto rivedendo adesso. L'ho già visto tre volte, ma non mi stanco mai. Gran gol anche quello di Kalinic, con un meraviglioso esterno destro. E poi bellissimo il triangolo ancora tra Insigne e Higuain, il suo sinistro piazzato. Ma d'altra parte questo è il più forte attaccante del campionato italiano. 800240024, numero verde, vi aspettiamo subito dopo il traffico. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City. Smau.it vi presenta convocati. Ripeto i risultati dal primo all'ultimo, o li vuole ripetere lei, premio Berlusconi? Se lei ha piacere, io sì, purtroppo sono rimasto senza il fogliettino. So che oggi si giocava Sassuolo contro la Carpese, di cui non mi sovviene francamente il risultato. Allora, il Napoli ha battuto la Fiorentina. Aspetti che le giro il computer. Che beh, mi certe cose me le ricordo, anche perché c'ho la televisione e riesco ancora a intravedere. Il Napoli ha battuto la Fiorentina. E parla Higuain, sentiamolo. A uno, sentiamolo. Una sfida importante per la classifica, per continuare a crescere. Siamo felici per questo e dobbiamo continuare così. Sarri aveva detto che vogliamo avere continuità e mentalità, soprattutto dopo il primo tempo. Avete tirato fuori forse quella giusta mentalità che serve a questo punto per puntare veramente in alto, perché la Fiorentina ha giocato una grande partita. Sì, la verità è che loro sono una grande squadra. E noi per vincere dovevamo mettere tutto e lo abbiamo fatto, per fortuna siamo felici. Sei gol tu in campionato, sei gol anche Lorenzo Insigne, tu però insomma ci hai messo la differenza, è un gol, è una vittoria che può spostare secondo voi la vostra proiezione, il vostro futuro in Serie A? Perché insomma Sarri ieri diceva che sarebbe stata una bestemmia addirittura a parlare di scudetto. Manca tantissimo, adesso è che dobbiamo sfruttare e crescere poco a poco, che è lo che vogliamo. Ti senti, sì? Felice. Mi stai sentendo? Ok, ciao. Sarà anche una se lei mi permette, Genta, faccio i complimenti al Pepita, perché è un giocatore straordinario. Mi sembrava di sentire un po' Javier Zanetti, sono uguali, sono due gocce di acqua. Non a caso arrivano dalla stessa parte. Chiedo scusa, ma io ho una cosa più importante da fare, anche se il Papa è sempre un onore sentirlo. Dunque, si diceva che il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1, Sassuolo batte 2-1 la Lazio, Verona, c'era contento il presidente, bravo, di Confindustria. Verona Udinese 1-1, il Genoa ha battuto proprio all'ultimissimo secondo con una botta di che non si dice 3-2 il Chievo, il Frosinone in inferiorità numerica, in inferiorità, sono sempre in inferiorità numerica con Gasperini. Frosinone batte Sampdoria 2-0, non è contento il presidente Viperetta. L'Atalanta ha battuto il Carpi con un sonoro 3-0 e il Bologna in casa si è fatto infilare dal Palermo, quindi 1-0 per il Palermo, vittoria in trasferta. Molto bene, sono stato bravo, molto bene. Poi anche prendete, dopo, so fare anche giardinaggio se volete. Questo lo vedremo dopo. Intanto stavo parlando con Boris Sollazzo, che ha sentito il suo goleador Gonzalo Higuain. Piano piano dobbiamo crescere, poi vediamo. Intanto il Napoli si arrampica a 15 punti, la Fiorentina ne ha 18, la Roma 17, l'Inter vediamo. Guarda, è la vittoria più importante di questo inizio stagione, più di quella col Milan, più di quella con la Juventus, più di quella con la Lazio, perché oggi abbiamo battuto una grandissima squadra. Io ripeto, la Fiorentina, dopo averla vista oggi, sono sicuro che finirà tra le prime tre. È una grandissima squadra, Paolo Sousa è un grande allenatore, e se non avesse avuto di fronte il miglior Napoli con due gol straordinari, perché il primo belli, sono due colpi belli, da Pigliarco belli da morire, belli, mi sto riguardando tutte le volte, Sì, no, ma sono tre gol, uno più bello dell'altro, cioè oggi, belli da morire, belli da oggi morire. Devo dire che sono felice come una Pasqua che abbiamo vinto, ma se avessimo pareggiato sarei stato felice lo stesso, perché io volevo un segnale. Sei un bugiardo patentato. No, no, è vero, volevo un segnale da questa partita, non volevo la vittoria. Io sono convinto, ripeto, che noi 80 punti li faremo, come la Fiorentina, facendo la Fiorentina poco importa. Continuità di gioco. Te sento più. Ma cos'hai, il cellulare di Pardo? Hai il cellulare di Pardo? Aspetta, va. Ciro Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, buonasera, non so cosa dirle. Buonasera, allora, a questo punto c'è buio quasi. Allora, buonasera. Io sono napoletano, tifoso della Fiorentina, però chiaramente il mio cuore è anche napoletano, per cui la mia seconda squadra si chiama Napoli. E io volevo dirle questo: io sono uno di quelli che era arrabbiatissimo di fronte al mercato della Fiorentina, perché ho sempre pensato che la Fiorentina fosse probabilmente la prime 10 squadre in classifica. Dopo questa sera, dopo aver visto la partita, sulla quale potrei dire mille cose, innanzitutto dico che non sono d'accordo con chi ha detto che il Napoli ha giocato contro l'arbitro, perché non mi sembra assolutamente. Il Napoli ha giocato contro una squadra messa bene in campo, non più forte del Napoli, ma messa bene in campo. Questo certamente, non è neanche una grande sorpresa, mi pare, no? No, è una squadra che sta giocando obiettivamente bene, ma se non fosse stato per quel gol, dove secondo me c'è una responsabilità colossale di Tomovic, che proprio ha dormito il primo gol di Insigne, io penso che questa sarebbe stata una partita da 0-0, onestamente parlando. Comunque, esco soddisfatto da una partita del genere e anche fiducioso che la Fiorentina arrivi nelle prime 4, non... non nelle prime 3 come ha detto qualcuno. Cosa mi dice della copertura di Koulibaly sul gol della Fiorentina? Anche quella è stata una un buco non da poco. Lui bravissimo, non da poco. Bravissimo, però, gran palla d'esterno. Gran tocco di Kalinic, che è il giocatore che l'anno scorso la Fiorentina mancava. Perché esatto, la Fiorentina sono due anni che gioca senza attaccanti, diciamoci la verità. Mi lasci dire che quest'anno noi abbiamo trovato un giocatore che forse non conosceva nessuno o pochi, che gioca al calcio e fa la punta, secondo me, benissimo. Perché non è solo il gol, ma è anche quando tiene palla, anche quando fa salire certo. la squadra, assolutamente. Un applauso a chi ha scelto questo giocatore, perché veramente è forte. Un'ultima cosa volevo dirle, io vi seguo sempre al 99% in podcast, perché non riesco durante quell'orario per lavoro. Vi prego, parlate un po' di più della mia Fiorentina. Lo so che dite sempre. Ok, accolta obiezione, accolta vostro onore, va bene. Vi bravo Pino, sono perfettamente d'accordo con te. Forza Viola. Chi più di lui. Va bene, complimenti per la trasmissione. Grazie, mi saluti, grazie Ciro. Sì, dopo quando arriva glielo saluto io. Boris Sollazzo, sei tornato? Eccomi, avevo rubato il cellulare a Pardo. Lo so. Cellulare di Pardo preziosissimo. Volevo vedere le sue foto sullo smartphone. Senti, non la vuoi dire quella parola, no? Ma non la dico perché, ripeto, non, questa squadra può vincerlo, quello che inizia cosa? Per Q e finisce per te. Ah, ecco. È solo ed esclusivamente se non ci pensa, cioè solo ed esclusivamente se decide Boris, però il Napoli mi sembra una grande squadra, cioè vista anche oggi, riguardati i gol che ha fatto, cioè capolavori, ok? È veramente come se avesse giocato a biliardo contro una squadra che tra l'altro in difesa è molto buona. Esatto. Ma ripeto, oggi secondo me oggi ci ricorderemo questa partita, soprattutto il secondo tempo, come una dei migliori momenti di calcio di questa stagione. Ripeto, se davano 3 punti a tutte e 2 le squadre non facevano torto a nessuno. Ma sei veramente un democristiano. No, ma sul serio. No, devo ma dire, sei un democristiano, dai, su, Boris, fa il bravo. Guarda, allora posso dirti da tifoso, non c'è niente di meglio di vincere una partita così, contro una grande squadra che forse meritava di più e con i tuoi idoli che segnano gol meravigliosi. Detto questo, io non posso onestamente negare che oggi di fronte avevo la squadra più forte cioè, visto in queste prime 8 giornate, e quindi la mia gioia mi fa andare fuori di senno per questo, perché davvero oggi ho battuto, se noi siamo in questo momento il Barcellona e il Real Madrid, voglio dire, ho battuto adesso, una grandissima squadra. Adesso non ti allargare. Carmelo Sondrio, buongiorno. Buongiorno. Anzi, buonasera, dica. Pronto? Abbassi la radio e poi dica. Sì, ciao, sono Carmelo di Sondrio, mi senti? Ciao Carmelo, come no? Pronto, ciao. Ciao. Ascolta, voglio dire una cosa io, questi 22 milioni di italiani che vogliono fare tutti allenatori di calcio. Abbassa quando... Carmelo, abbassa la radio perché sennò è una cacofonia, come direbbe il Premier. È cacofonico. E dica, bisogna abbassarla sta radio. Caduto. È cascato. No, non ho capito. Mi spiace molto. Invece di abbassare la radio, ha spento il telefono. Se n'è andato proprio. No, volevo chiudere il discorso con Boris Sollazzo. Qual è il limite? Sollazzo. Ma adesso è faticoso dirlo, probabilmente ancora dietro, anche se poi se Isai e Koulibaly giocano così, addirittura oggi Albiol addirittura segnava, è difficile. Io credo che c'è una parolina magica. Tu sai qual è? Quale? Equilibrio. Equilibrio. Questo Napoli ha equilibrio e l'ha trovato Sarri. Guarda, il problema però è sempre lo stesso: se entrano al posto di Raul Albiol, Enrique e Kilikes, o entra al posto di Allan, cambia poco. Mi credi che cambia poco? Guarda, su David Lopez posso essere d'accordo, invece dietro credo che Raul Albiol e Koulibaly abbiano trovato una tale unione, una tale simbiosi, che invece dietro potrebbe essere un problema. Però speriamo, come ho detto, abbiamo il Maradona dei medici sportivi, quindi speriamo che quest'anno faccia la sua stagione migliore. In questo momento tutto sta girando per il verso giusto, mi pare. Quindi anche troppo, il limite, il limite è il cielo azzurro, caro Boris Sollazzo. Ti saluto. È anche l'entusiasmo azzurro, non vogliamo bassi. Ciao Boris. Ciao, a presto. Diciamoci la verità, dai. È un Napoli da scudetto. 800240024. Sta arrivando l'Apo El Can. No. Dopo la pausa. Niente, ma si vede che un momento così, ogni tiro in porto prendiamo un gol. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Convocati. Palla verticale verso Bertolacci, che la mette in mezzo per Bacca. 1-0 Milan. Bacca, minuto 63. Tutto troppo, troppo facile, ma intanto sorride il Milan. Palla verso Belotti, posizione regolare. Poi Baselli. Eccolo! Il gol dell'1-1 con Baselli. Il pareggio del Torino. Al minuto 73, quinto gol stagionale, quarto in campionato per Baselli. Penso che abbiamo fatto un'ottima gara, siamo andati in vantaggio, dopo aver fatto gol abbiamo smesso di giocare. Là bisogna gestire meglio la gara, bisogna farsi fare qualche fallo. Abbiamo perso 3 palle in uscita, palle nostre, abbiamo buttato, abbiamo perso la serenità. Si accende il microfono o no? Sì. Questo riassunto sonoro, Mihajlovic compreso, della partita di ieri Torino-Milan 1-1. Non una gran gara del Milan, ad essere sinceri. Soprattutto un pessimo, a mio avviso, secondo tempo, al di là dei dettagli che sottolinea Mihajlovic. Sentivo lo spot prima anch'io dal 2007, che aspetto che mi aggiustino la lavastoviglie. Nel frattempo ho anche mal di gola, ma c'è, oltre a Monica Colombo dal Corriere della Sera, è arrivato il mio amico Lapo Elkan. Buonasera. Un saluto pieno sempre di matericità sofisticata New Fashion a te, Carlo Ginca, e al contempo stesso agli amici pieni di energia di tutti i convocati. Weekend, ogni tanto raglio. Ben trovato a poche ore dall'inizio di Inter-Juventus. Non ti chiedo perché tifi. Ma visto che sei un grande intenditore, potresti fare il punto, darmi una lettura tecnica della partita? Guarda Carlo, adesso entriamo. È quello che ho detto io, Carlo. Entriamo, tu sei un mattacchione. Entriamo nel succo della questione. Entriamo nel succo della questione. Sarà una partita che valga il prezzo del biglietto che comprino. Vale il prezzo del biglietto. Sentissi dire. Mi sentirei di dire. Che cosa? No, io non lo so, stai parlando tu. Allora si tratta evidentemente di un qui pro quo. Allora, qui pro quo. Sì, un qui pro quo comunicativo, succede nelle migliori famiglie. Senti, facciamo così, stai con noi. Datemi poi quella farfalla. Poi entriamo nel succo, va. Entriamo nel succo. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Come va? Come vuoi che vada? Hai sentito il signor Lapo e il Can. Sì. Saluto anche Pier Pardo, che è sempre così pieno di matericità sofisticata. Complimenti per gli occhiali, per le macchine. Se vuoi c'ho dei nuovissimi occhiali al brasato, ti starebbero benissimo. Fai bravo. Fai bravo. Sì. Monica Colombo, buongiorno, spero non sia scappato. Buongiorno Monica. Come stai Monica? Senti, posso dirvi ragazzi, voi che l'avete vista, commentata, Pardo, Monica Colombo, ieri sera questo Torino-Milan, posso dire un pessimo Milan nella ripresa? Posso dirlo? Ma secondo me dai. Nel primo ci sono Monica. Stati più cartellini che occasioni. Sì, mm-hmm. Nel senso, ma se ieri doveva essere un po' la gara della svolta, quella della resurrezione dopo la sconfitta clamorosa in casa con il Napoli, diciamo che tutto questo non si è visto, nel senso che no. È vero che c'è stato agonismo, probabilmente una squadra più compatta rispetto a quella in precedenza schierata col 4-3-1-2, sì. Ma mi sembra che la strada è ancora lunga, non so se Pier Pardo conviene con me. Sì, grazie per chiamarmi Pier Pardo come da profilo come da Twitter. Ormai sì. No, ma sono d'accordo, a me sembra insomma che ieri il problema è quello che è successo prima di ieri. È chiaro che quando tutti presenti a Torino a giocare dopo che hai fatto 9 punti in 7 partite, ne hai perse 4 su 7, è ovvio che la partita di ieri venga... Senti Pier, venga... ma ti faccio una domanda, sì, secca. Non hai avuto l'impressione che nella ripresa al Torino ne avesse il doppio dal punto di vista fisico? Io ho avuto la sensazione, ne parlavo anche per esempio con Sassulla a fine partita, così facendo due chiacchiere d'amicizia, che il Torino, considerata la quantità delle assenze che erano pesanti, ha pareggiato rischiando quasi di vincere, o comunque mi ha dato la sensazione che la potesse portare a casa, sì, se ci avesse creduto un po' di più, se avesse rischiato un po' di più. Questo è abbastanza impressionante, no, per il Toro, con tutte le assenze, senza giocare una grande partita ha rischiato sì, anche di vincerla, sì. Detto questo, le ripeto, il Milan, il problema è che ha perso quattro partite nelle prime 7, quindi si è presentata con quel tipo di atteggiamento. La gara di ieri secondo me non è stata così brutta, non è stato un Milan straordinario, ma molta della frustrazione. Sei in pagella, dai. Sì, sei, cioè è chiaro poi che uno dopo che ha visto le prime 7 giornate è così, e gli dà pure 5, no? Cioè è chiaro che i milanisti oggi sono disperati. Non lo so, Francesco provincia di Ancona, lei è disperato? Sì, assolutamente disperato. Buonasera a tutti. Un commento velocissimo sul mio Milan. Allora, il problema non è solo e non non tanto nel fatto che questa squadra è costruita non male, ma malissimo, e questo lo sappiamo, ma è che non troviamo la mano di Mihajlovic. Cioè, questo allenatore, noto per il temperamento, l'aspetto temperamentale in questa fase sta assolutamente mancando. Non so cosa ne pensano la signora Colombo, il signor Pardo. Lo faccio dire subito. Io io sono d'accordo con lei. Poi, assolutamente. Chiudo dicendo piano un attimo, uno per volta. No, chiudo dicendo solo questo. L'aspetto più grave, non so neppure le problematiche a livello di sistema difensivo, ma l'inesistenza di un centrocampo. Siamo in mano, ahimè, a un giocatore Montolivo, che un giocatore che, beh, che ieri non ha giocato, non ha giocato una brutta partita, onestamente. Però questo Montolivo che non gioca una brutta partita, però in realtà è come il tè, si dice da me, non fa né male né bene, no? Un bel tè caldo non fa né male né bene. Cioè, è un giocatore che invece di farti far girare il centrocampo, tiene la palla, la passa indietro, non è, lei dirà, non è un millimetronomo, non è lui, bene, però deve avere per personalità e per status le chiavi del centrocampo, e le chiavi lui ce l'ha e le mette in tasca e non le usa. Allora, sentiamo la signora Monica Colombo e il signor Pier Pardo. Monica Colombo. Io credo che alla fine ieri Montolivo non sia stato tra le note più negative della serata, perché concordo. Se dobbiamo cercare, come dire, dei giocatori che hanno giocato sottotono, possiamo rivolgerci a Cerci, per il quale si prospettava, diciamo, non dico la gara della vita, però era la sfida in cui poteva riprendersi il Milan. Invece mi sembra che in questa occasione ha toppato, ha aspettato il pallone tra i piedi. Senti Monica, però dimmi una cosa e poi sentiamo anche Pierluigi. Nei meandri dello spogliatoio del Milan, che si dice, ma perché ha giocato Luis Adriano e non Bacca? Non ha giocato Bacca perché è tornato giovedì pomeriggio alle 4:30. Crediamo questa cosa? Ma beh, credo di sì, cioè alla fine credo che sia controproducente per Mihajlovic potersi affidare a questo Luis Adriano, che è vero che allo Shakhtar giocava come unica punta, ma ieri ha dimostrato dei limiti, mentre Bacca comunque nella posizione di punta centrale ha vinto due Europa League con Guarda, il Sevilla. Io lo scarico dalla dall'aereo e lo mando in campo. Beh, matematico. Sì. Posso dire un paio di cose? No, pure su Montolivo. Montolivo sì. è, sono d'accordo con la figlia del te, ma non è che è colpa sua. Cioè, Montolivo è un buon giocatore, non è un leader, non è un trascinatore, non è un fuoriclasse. È un buon giocatore nel momento nel quale però deve, in questo centrocampo deve inevitabilmente diventare il leader tecnico. È chiaro che si fatica, cioè la struttura sarà fatta con la squadra come il Milan. Uno con Montolivo dovrebbe avercelo per completare la rosa, no? Il Milan dei tempi d'oro, o comunque per essere una pedina buona in un ingranaggio. Montolivo ha giocato, non ha fatto male, ha giocato una secondo me un'eccellente stagione alla sua prima da Milan, anche con grande personalità, poi infortuni, una cosa e l'altra, si è perso. Sì, ma cioè, comunque ripeto, non ci può, cioè, non ci si può interessare sul fatto che Montolivo non è Pogba, cioè è un dato di fatto questo, secondo me è abbastanza Pogba dei tempi d'oro, è un dato di fatto abbastanza oggettivo questo qui, e in generale non è il principale colpevole. Buonaventura a me ieri è piaciuto, mi sembra sempre il migliore del Milan, però poi ecco, Buonaventura fa sempre il suo. Tu guardi gli 11 giocatori del Milan di ieri, insomma, diciamo da squadra che può vincere il campionato, può rischiare di vincere il campionato, ce ne sono pochi, pochi. Questo è il problema, e invece si è speso tanto, insomma, perché di là adesso delle rappresentazioni cervellotiche e anche ovviamente dei dubbi che ci possono essere legittimi sul closing e su tutto il resto, a me è sembrato che il Milan quest'anno il mercato l'abbia fatto, i soldi li ha spesi, cioè sono degli indizi sul fatto che siano arrivati delle prospettive, dei capitali per fare bene, mi sembrano abbastanza evidenti. Ragazzi, sono lì da leggere le cifre, non è che ce le stiamo inventando, sono 90 milioni. No, io volevo chiedere ancora una cosa a Monica Colombo, la situazione di Sinisa Mihajlovic. Ma mi sembra che le punzecchiature del presidente nelle ultime settimane ne hanno un po' indebolito la posizione. Ha perso molto credito che aveva acquisito a inizio stagione, Detto questo, c'è il problema che comunque ci sono altri due allenatori a libro paga. Il punto di ieri ha solo alleviato in parte la sua pena. Credo che nemmeno in questo momento abbiano molta idea sul nome a cui eventualmente rivolgersi, se non Christian Brocchi, che sta allenando la Primavera, ma sarebbe l'ennesimo esperimento di allenatore senza esperienza dopo i due precedenti già messi in panchina. Credo che in questo momento è ancora pagati, è ancora libro paga, ricordiamo, è ancora libro paga, quindi in questo momento ha una fiducia a, come dire, un po' come lo yogurt con la scadenza, e penso che le prossime con partite scadenza, con Sassuolo e Chievo saranno fondamentali. Tra l'altro Sassuolo dopo la partita di oggi si presenta anche a San Siro con 5 punti in più, Sassuolo che era già stato fatale ad Allegri e che l'anno scorso aveva sconfitto anche il Milan di Inzaghi a Reggio Emilia. Insomma, la fatale Sassuolo, non la vedo semplicissima, non se la portano da casa. Mi perdoni signora, ma volevo precisare una cosa: Sinisa ha la mia totale fiducia, non si tratta di uno yogurt come dice lei, assolutamente la formazione la decide lui su mie indicazioni. Capito, capito Monica Colombo? Tutto chiaro? Tutto chiaro. Tutto chiaro, molto bene. Grazie Monica. A voi, buon pomeriggio. Grazie, ci fermiamo per il traffico, ma torniamo subito con Pierluigi Pardo e Zelig. Va bene. Ad inizio partita c'è stato uno striscione piuttosto chiaro sulle aspettative dei tifosi. Sì, ma normale, non è che solo tifosi aspettano, anche noi, i primi dispiaciuti siamo noi. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. In fase difensiva hanno fatto fatica all'inizio ad apprendere un modo di difendere che per loro era una novità, e questo è abbastanza normale. Adesso sotto questo punto di vista stanno crescendo e facciamo ancora qualche piccolo errore come in questo caso, perché sul gol preso un piccolo errore c'è, perché i tempi di fuga giusti ce l'ha solo Koulibaly, mi sembra, in questa situazione. È anche vero, hanno fatto una grande giocata, quindi in delle situazioni gol lo prendi comunque. Mister, un'ultima cosa, 5 secondi. Io ho giocato a calcio qualche anno e le dico, glieli faccio io i complimenti, insomma, perché lei parla di disponibilità, ma io calciatore la mia disponibilità la do solo quando il mio allenatore è credibile. Ti ringrazio, grazie mille Samir. Senta, chiudiamo con la sua tanto amata domanda dei social network. No, però un tifoso del Napoli che le esprime, credo, un sogno. Già le due opzioni che le pone sono incredibili, quindi poi scelga lei, veda lei. Con Eleonora Boi, prego. Buonasera, Antonio Spinetti vorrebbe sapere, ma se lei potesse scegliere tra vincere l'Europa League e giocarsi lo scudetto all'ultima giornata, cosa sceglierebbe? Siamo già arrivati alla fine stazione. Questa è un'eresia, non voglio rispondere. Non si questo può è Sarri al microfono di Mediaset. Marco, lei cosa sceglie? Ciao ragazzi, ma io ho visto una grande partita associandola allo stadio. Sinceramente la prima volta che vedo la Fiorentina, e c'è da dire che peccato che non ha grandi giocatori, perché come organizzazione tattica è veramente una bella squadra. Beh, qualche giocatorino ce l'ha, qualche giocatorino ce l'ha. Sì, ma alla lunga penso sia destinata a fare sì un buon campionato, ma non lo sta per. Ma cos'è sto fischio? E ci sarà qualche gnocca in giro? Ah, non ho capito? La cintura, la cintura. Allacciamo la cintura, Marco. Faccia la cortesia. In positivo, Come? Perché il Napoli mi ha sorpreso in positivo, non pensavo che un cambio di modulo potesse far diventare buoni giocatori che io reputavo, diciamo, scarsi, tipo Albiol e tipo Jorginho. Invece Jorginho è diventato un altro giocatore con questo 4-3. E la difesa risulta coperta e non rischia come rischiava prima. Cioè, sinceramente, questo Napoli non credevo che con questi giocatori potesse diventare. Pardo, vogliamo dire il segreto di Pulcinella? vuoi dirlo tu? No, no, ma ragionissimo ad ascoltare forse Benitez, dobbiamo dire qualcosa sul centrocampo a due di Benitez, non lo so, mi sembra il passato quello, però Marco ha ragione, è ragionissima, mi sembra veramente, sono completamente d'accordo con lui, sia sulla Fiorentina, sulla forza della Fiorentina, perché oggi secondo me ha giocato una bellissima partita. Sì, però io non sono d'accordo sul fatto che non abbia giocatori, perché qualche giocatore della Fiorentina ce l'ha, ma non per vincere lo scudetto. No, però siccome poi il tema era questo, e devo dire la verità, per giorni ci hanno detto sottovalutate la Viola, e non è che era sottovalutato, oggi se non esce rafforzata, cioè la partita che ha fatto è stata una grande partita, chi l'ha vista lo sa, la Fiorentina ha giocato secondo me il primo tempo, i primi 25 minuti meglio del Napoli, e ha fatto una buona partita. Complessivamente il Napoli ha più qualità, il Napoli ha Higuain non ce l'ha nessuno, ma anche Insigne, Pierluigi, fa il bravo, Higuain e Insigne sono la più bella, la coppia più bella del mondo italiano. In assoluto scelgo sempre Higuain. Ma sì, ma anche io. Però Napoli c'era tutti e due, quindi non deve, è nella fortunata condizione di non dover scegliere. Vabbè, io ribadisco, no, se no poi lo dico tutte le volte, sembra poi ci sono gli scaramantici. Per me questa qui, e oggi, la vittoria di oggi è una vittoria che è proprio perché è stata più difficile secondo me rispetto ad altre, perché non è stata la vittoria in goleada, certo, che si è vista, certo, contro la Lazio, certo, contro il Milan. Oggi è stata una partita meno bella secondo me come picchi di rendimento, forse anche per la forza dell'avversario, però è una vittoria che diventa anche più importante perché tira il segno di una tenuta mentale. Mi spiace dirlo, ma hai ragione da vendere. Perché ti spiace dirlo? Perché just for fun. In 20 secondi invece sul Milan per chiudere il aspetta prima. Però dopo Roberto, perché dopo Roberto. Poi abbiamo minuto e 10, facciamo parlare Roberto sul Milan e poi puoi dire quello che vuoi. Vai. Roberto, buongiorno. Buonasera ormai. Per la trasmissione. Grazie. Carlo Gente e a Paolo, grazie, scusi. Non ho capito. No, saluto a Carlo Genta, a lei. Grazie, a ok, sì, grazie. Grazie. Mi sono confuso io, scusi. Dica. Riguardo il Milan, io da tempo che dico, è il centrocampo purtroppo che non funziona e quindi la squadra non gira. Montolivo, come diceva lei, appunto, sì, è un buon giocatore, però quando l'anno scorso aveva ripeto, è giovane, Cristante l'ha mandato a Benfica e se ne parlava bene, poi... Tale Saponara, nessuno. Dice qualcosa? Saponara o Cristante che risolvere i problemi. No, sono d'accordo, Saponara è Empoli, un bellissimo giocatore. Cioè, secondo me, non è che non ci siano i Saponara e i Cristante in questo Milan, perché Bertolacci, se mi consentite, è abbondantemente un Saponara, no? Per quello che ha dimostrato fino ad oggi. Perché Bonaventura, che secondo me è il migliore di questa fase. E allora facciamo così Pierluigi, dobbiamo mandare puntuali il giornale radio, le considerazioni arriveranno subito dopo. Una furia alla 11 ha raddrizzato di colpo, l'ha messa dentro, ci sta. Tutti convocati, il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Convocati. De Rossi sul primo palo, il pallone per lui, De Rossi segna nel giorno della 500ª partita con la sua pelle giallorossa, un capitano bandiera che trova il gol nel giorno in cui gli hanno messo lo striscione qui e anche al Colosseo. 2-0 Roma. Oggi un copione perfetto per te Daniele, anche un gol. Ah sì, abbiamo vinto, siamo contenti perché sappiamo che era molto molto importante, ci sono delle partite, insomma dei scontri diretti e non potevamo non sfruttare questi incontri non prendendo tre punti, quindi poi sì c'è tutta insomma la storia, le presenze, il gol mio, insomma sono contento, ma la solita frase no, trita, sono contento perché abbiamo vinto. Capitan futuro, chissà se il futuro arriverà un giorno o l'altro. Sempre Pierluigi Pardo collegato con noi, un sacco di convocati in questa domenica 8.00.24, Massimo D'Alecco, Paolo da Milano. Lapo con Levriero. Ah, esattamente, è il can anche lui. Allora entriamo nel guarda, c'è Massimo D'Alecco che vuole parlare di voglio sentire Inter Juventus. Voglio sentire anch'io Massimo D'Alecco. Vuoi sentirlo? Sì. Massimo, buongiorno. Massimo. Volevo fare una domanda a Pierpardo. Sì, eccolo qui. Allora, io vado allo stadio da 30 anni e sono convinto che in questa Inter, che non ha grande qualità, un giocatore che, di cui i giornali hanno parlato molto poco, invece è fondamentale, purtroppo stasera mi sa che non gioca, è Telles, perché è l'unico giocatore che intanto batte il calcio d'angolo in maniera divina, e questo è fondamentale soprattutto per una squadra che manovra poco. E poi mi sembra che è l'unico che riesca a portare sulla palla con una certa intelligenza. Juan Jesus è vero che copre meglio di Telles, ma è confusionario, scarto. Non è il suo mestiere. Telles batte le punizioni, gli angoli, è fondamentale in questo momento, secondo me. Sono d'accordo, Juan Jesus è adattato ovviamente dal terzino, perché è uno di quei giocatori che appunto può fare sia il centrale a tre. Cioè, o meglio il centro-sinistra a tre, ma insomma sicuramente non è un terzino puro naturale, ma sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, è uno di quelli che si è calato abbastanza rapidamente nei meccanismi ed è sempre un segnale importante, un po' come Digne nella Roma, sì. Quei giocatori che arrivano e li metti e fanno il loro contributo. Quindi sono perfettamente d'accordo. La Roma dire, zitta, sì, volevo dire una cosa su De Rossi. Uno dei motivi per i quali io voglio bene De Rossi è per quello, se tu fai risentire quell'intervista lì, perché uno che dice è la solita frase trita e ritrita, c'è un calciatore che si rende conto del fatto che poi spesso si dicono banalità, ma per carità è ovvio che costasse tanto vincere ieri. De Rossi è un io penso che De Rossi sia, con tutte le sue contraddizioni e anche con i suoi errori, perché attenzione, non è dire che uno prova una simpatia per un giocatore non significa nasconderne i comportamenti sbagliati, che ci sono. Poi meraviglioso centrocampista che quando deve andare a giocare meraviglioso centrocampista che quando deve andare a fare legno in mezzo alla difesa ci va senza fare una piega, un plissé. Ma al di là degli aspetti tattici, De Rossi è uno dei calciatori meno banali, più interessanti, anche nelle dichiarazioni post partita, nelle interviste che ci sono, secondo me, in giro. È un giocatore chiaramente straordinario, e lo dicono i numeri, è credo il giocatore della storia della Roma con più gol in nazionale, è il centrocampista con più gol in nazionale negli ultimi anni, è un giocatore duttile come sottolineavi tu, è chiaro che ha avuto alti e bassi tanti in carriera, è stato caricato in questi anni della responsabilità di essere capitano futuro, cioè di essere un giocatore, e poi è stato caricato anche, perché è molto piacevole la cosa, di una responsabilità legata al suo stipendio che è molto alto, perché lui era finito, lo ricorderete, a parametro, e quindi rischiava di partire, e quindi come sempre in quei casi chiaramente il contratto è un contratto migliore, e da cui la famosa frase di tutti i commercialisti. Però ecco, io penso che queste 500 partite siano state 500 partite di altissimo profilo, e che sia uno di quei giocatori che, ripeto, anche con le cadute che ha avuto, è bello che esistano, è bello che appartenga alla sua squadra, che continui a segnare uno scudetto, insomma provo una profonda, lo trovo molto interessante, e oltre che ovviamente un grande giocatore. Sul Milan, 10 secondi, aspetta Pier, abbiamo... non me la fai di sta cosa del Milan? No, ma andiamo avanti, c'è il traffico, poi c'è Paolo da Milano, c'è Labo che ha ascoltato con attenzione l'intervento dell'ascoltatore. Esattamente, traffico. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Tutti convocati. Ieri lei ha detto la Juventus resta favorita, oggi Allegri in conferenza stampa di vigilia ha detto Inter e Roma sono favoriti per questo scudetto, dice una Roma che vince questa sera contro l'Empoli, che domani si mette a guardare la sfida tra Napoli e Fiorentina, poi quella tra Inter e Juventus. E sembra un ping pong allora questa cosa, ognuno... È un po' un rimbalzone, si dice qua in Italia. Sì, sì, ma ping pong non esiste in Italia. Ping pong esiste in Italia. Intanto il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1, lo ricordiamo, nel big match del pomeriggio. Inter Juventus si gioca questa sera. Come? No, no, è che capito che parlavo, ma no, volevo dire che esiste soprattutto più ping pong di rimbalzone, secondo me, no? Sì, sì, sì. Ci voglio bene, Michela, nettamente. Rimbalzone, lasciamolo lì. È più il ping pong. Poi i francesi hanno questa. Che poi, scusami, un francese con tutti gli accenti, come si dice, ping acuti, pong. No? Dovrebbe dire ping pong, a maggior ragione, no, dovrebbe dire ping pong. Come i francesi che dicono Platini, ti ricordi i francesi che dicono Platini? Come per no? Dire Platini? Ma come? La cosa. Allora è proprio lasciatelo a noi il ping pong e Platini. Ecco, allora se mi permettete, ecco, guarda, io farei una sfida ping pong con Pardo nel momento in cui indossa gli occhiali con montatura al brasato. Bello, così bello, vede meglio. Va bene, ma allora entriamo sempre nel succo. Entriamo. Della questione. Sempre, senza qui pro quo. Qui pro quo. Ecco, io credessi che, parlando di cose serie, non come voi che gigioneggiate, parlando di Inter-Juventus, credessi sarà un range di partita dalla tipologia che fosse agguerrita. Ho capito niente. Che no, è chiaro. No, chiaro. Io non ho capito niente. Non mettermi in bocca una cosa che io non ho detto, gente. La partita sarà un match nel quale i giocatori mettono un concetto aggressivo, ma metteranno. Probabilmente emetteranno. Sì, no, ma cioè, se più o meno emetteranno, no? Stasera 20:45. Senti, se non entriamo nel succo della questione, si generassero dei qui pro qua. Ormai faccio confusione. Guarda, Andromercu mi fa impazzire. Anche l'Apo, naturalmente. Paolo da Milano, buongiorno. Anzi, buonasera. Ciao Carlo Gente. Ciao. Ma siamo alla Zanzara o a tutti i convocati? Non so. Ho perso il conto. Cuore denari. Io amo cuore denari. Noi puntiamo, io e Pardo puntiamo a cuore denari. Lo dichiaro ufficialmente. Sulle donne, ho capito. Ascoltami un attimo, sì. Io sono milanista da 100 anni, cioè 60 anni, e sono fiero di essere milanista, però sentire tutti questi piagnistei dei napoletani che all'inizio, basta veramente, Napoli sta giocando bene, ha vinto, ma sempre a parlare degli arbitri è una cosa assurda. Infatti volevo fare un appunto, Insigne, cioè, ragazzo che 4 anni che non gioca nel Napoli, ha fatto 20 gol, cioè, oggi come oggi è il suo momento, mi pare di Higuain, grandissimo attaccante, sì. Aspetta, piano un attimo Paolo, perché Insigne l'anno scorso non ha giocato, Non ha giocato, si è fatto male subito. 20 presenze e 2 gol, si è fatto male a fine. D'accordo, però vabbè, il fisico è quello che fa sempre lo stesso movimento, oggi tocca la palla, fa gol, come Ravanelli nella Juventus. Come chi? Come Ravanelli nella Juventus? Sì. Aspetti un attimo. Passiamo. Sì, no, vabbè. Aspetta. Ravanelli, ma un po'. Ma un ragazzi, po' fate i bravi. Aspetta. Aspetta. In questo momento la classifica dice che l'Inter è la favorita dello scudetto, nonostante che la Fiorentina sia prima e stia facendo veramente un ottimo campionato. La Roma è la seconda favorita dello scudetto, il Napoli è il terzo favorito dello scudetto e la Juventus è la quarta favorita dello scudetto. No, la favorita è la Fiorentina oggi, perché in testa alla classifica qui ci sentiamo come secondi in questo momento, ma sappiamo che il campionato sarà lungo, difficile per tutti, le squadre forti ritorneranno a lottare per il titolo, questo è sicuro. Non è assolutamente una partita da dentro o fuori, credo che in questo momento bisogna essere realisti. Il nostro obiettivo credo che sia quello di arrivare a marzo e essere in lotta per lo scudetto. Difficoltà, ma si sta riprendendo. Poi noi siamo lì, abbiamo iniziato bene il campionato, quindi la nostra voglia è quella di rimanere lì in alto e lottare poi fino alla fine. È una partita importante, non è una partita decisiva, perché mi sembra il campionato sia abbastanza equilibrato. Una vittoria nostra darebbe grande entusiasmo, quindi questa è una componente importante. Paolo da Milano diceva? Sì, no, stavo dicendo. Non mi ricordo più, di Insigne, e come Caravanelli aveva un altro fisico, altra potenza fisica e anche un po' più senso del gol. Insigne mi sembra proprio. Vabbè, oggi come oggi. Non so, glielo chiediamo, glielo vuole chiedere lei? A chi? A Ravanelli. No, io, cioè, Ravanelli logicamente dirà che insegna bravo di qua. Di là, chiediamo, di allora chiediamoglielo. Non gli, eccolo qui. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Hai sentito? Ho sentito, Sei diverso, che tu sei alto. Beh, insomma, sei giocatore un po' diverso, Fabrizio diverso, Ravanelli, rispetto a Lorenzino Insigne, no? No, però, però quello che dice l'ascoltatore ha una sua, chiaramente una sua verità, cioè che esistono per gli attaccanti delle fasi, dei momenti in cui improvvisamente ogni pallone che tocchi diventa oro. È il momento di Insigne, ma non soltanto, poi Insigne ha una qualità tecnica clamorosa. Come la vedi, Fabrizio? Assolutamente sì, Insigne ha qualità, è un giocatore, credo che sia un giocatore anche di grandi prospettive, perché è giovane, ma lo scorso anno, non dimentichiamoci, al di là dell'infortunio veniva impegnato saltuariamente, sempre 20 minuti, 15 minuti, adesso sta trovando continuità. Credo che la differenza tra quest'anno e lo scorso anno, vedo da parte di tutta la squadra, Higuain in primis, una grande partecipazione al progetto Sarri. Credo che ci sia un senso di appartenenza molto molto forte, che questo anno non c'è. Cosa che Fabri non c'era l'anno scorso. No, secondo me non c'era lo scorso anno. Quest'anno credo, tanto che... per parlarci chiaro. No, ma io il mio pensiero lo dico tranquillamente anche quando mi chiamavano da Napoli. Credo che quest'anno sia totalmente un Napoli totalmente diverso dall'approccio alle partite. Basta vedere dopo i gol l'esultanza, l'abbracciarsi con l'allenatore. Credo che ci sia totalmente un'altra mentalità all'interno dello spogliatoio, e al di là di tutte le tattiche o cose che si vogliano mettere in risalto, ma credo che la differenza lo faccia sempre la mentalità, il carattere, la determinazione e come si vive all'interno dello spogliatoio, come si vive, come ti fa vivere l'allenatore, il senso di tua di appartenenza, se l'allenatore è considerato una brava persona. E quindi queste sono secondo me le cose che fanno la differenza. Poi la domenica, quando si va a giocare, a dividere la posta in palio, che sono i tre punti. Sì, questo è chiaro, Pardo. Gli aspetti tattici contano, perché ti consentono di creare questo buon umore. Cioè Koulibaly quest'anno, protetto da questo centrocampo più folto e dai due esterni offensivi che comunque si fanno il cosiddetto, no? Sì, però ha ragione Fabrizio, è fondamentale ma che conta, come cantava qualcuno, la partecipazione. Bravissimo, che quest'anno non c'è, che l'anno scorso non c'è. Però voglio dirti, Jorginho, questo cambio di modulo gli ha fatto bene, no? Haaland senza questo modulo probabilmente sarebbe di meno, la difesa è più protetta, c'è una serie di elementi, secondo me. Ma io non è che sono contrario a quello che voi dite, cioè è evidente che questa è una squadra in questo momento ispirata da un'energia bellissima, ed è verissimo, a me ha colpito di quello che diceva Fabrizio l'ultima frase, no? Se l'allenatore è una brava persona, non che Benitez non fosse una brava persona, per carità, però ci sono allenatori che riescono a trasmettere qualcosa a livello di motivazione di superiore ad altri. Benitez è riuscito molto ne abbiamo già parlato. Quante parole ha speso Higuain per Rafa Benitez? Zero. Posso dire una cosa? Sì, certo, devi, Fabio. Posso dire una cosa? La differenza, vi racconto due aneddoti. Uno, quando è arrivato Lippi alla Juventus, e due, quello che ha detto Sarri quando ha detto che tutti erano sostituibili tranne Higuain. Higuain è un giocatore è un leader, è un leader indiscusso, la sua carriera, le sue presenze, i suoi gol. E credo che all'interno dello spogliatoio, quando fai sentire un leader importante, cioè lo spogliatoio elegge l'allenatore, è lo spogliatoio ha eletto Higuain, che poi è stato sostenuto questa leadership di Higuain anche dall'allenatore. Higuain fa la differenza in campo e dentro lo spogliatoio, c'è un senso di partecipazione totalmente diverso. È come il primo giorno quando è arrivato Lippi alla Juventus, ok? E disse che in pratica non potevamo pensare solo di poter giocare con un solo giocatore, che Baggio eravamo importanti alla stessa maniera. E lì, in quel momento, è cambiata totalmente la partecipazione dello spogliatoio, mentre prima le responsabilità erano solo ed esclusivamente di un giocatore, o si vinceva o si perdeva, i meriti erano sempre di uno o massimo due giocatori. Quando arrivò Lippi fece sentire tutti importanti alla stessa maniera, da quello che stava in panchina, che andava in tribuna, da quello che giocava. La differenza, credetemi, non per presunzione, ma la fa lo spogliatoio, la fa un allenatore chiaro, un allenatore trasparente. È inutile la tattica, è inutile la tattica, tu puoi mettere quello che vuoi, perché con tre attaccanti, con le due ali che tornano, li metteva anche, la messe anche Benitez il 4-3-3, ma se i due giocatori esterni non ti tornano perché magari non vai d'accordo, perché non vuoi con Benitez, tu puoi fare quello che ti pare. Il 4-3-3 Benitez non l'ha mai fatto e non abbiamo mai capito perché non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto, magari anche perché non aveva giocatori disposti a farsi quel tipo di mazzo, no? Perché Giorginio l'avrebbe recuperato. Scusa, adesso non litighiamo la parola grossa, non ci contraddiciamo fra di noi sulla cosa, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, però secondo me c'è anche questo elemento qui, oltre a quello che dice Fabrizio, che è verissimo, e l'esempio di Lippi è prezioso e illuminante, perché è ovvio che è quello. Un gruppo è un ambiente complesso, un gruppo umano complesso, con degli equilibri delicati, sottili. Chiaro, quindi, chiaro. Però insomma, secondo me c'è anche quello, c'è anche quella roba lì. Cioè, Giorginio l'anno scorso col centrocampo a due non giocava mai. Oh. Il Napoli cambiava ogni settimana i due centrocampisti centrali. Oh. E il miglior centrocampista dell'anno scorso del Napoli è stato Gargano, con tutto rispetto, insomma, però se Gargano è il miglior centrocampista di una squadra non vai lontanissimo, non vince il campionato. ragazzi, però prima di salutarvi, allora datemi una rapida lettura di quello che vedremo stasera a San Siro, perché se oggi Napoli-Fiorentina era la partita della gioia, del sorriso, della bellezza di essere lì, questa sera c'è una partita carogna. Fabrizio. Sì, credo che si possa dipingere. Io credo che la partita sarà svolta così, poi magari sarà smentito dalla partita stessa. Credo che l'Inter cercherà di vincere la partita e la Juventus deve essere brava a difendersi e ripartire con quei giocatori che possono fare la differenza e che ha tanti giocatori, e quindi dovrà essere brava a rimanere corto, marcare forte gli appoggi in fase di transizione negativa, essere brava a essere corta e lì fare la differenza nella chiusura, come ha fatto la Juventus, come ha fatto la nazionale queste ultime due partite. Chiaro. È tutto qua. Credo che se sarà capace di fare questo, dal Meazza con una vittoria contro il punto. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Fabrizio. Ciao. A te Pier. Sei d'accordo con questa lettura? Sì e no, nel senso, sono curioso di vedere la Juve per la prima volta con una formazione che assomiglia alla migliore Juve possibile. Rientra Marchisio, c'è che dire. Per ora ho beccato tutti e due i pronostici dei big match, insomma, no. Me la tiro. Non fare lo sbruffone. Vediamo se becco anche il terzo, dove ho detto che vince la Juve. Per me è una partita chiaramente da tripla, è una partita che può essere legata anche al singolo episodio, e l'Inter ha tantissima qualità, quindi può succedere di tutto. Però sono molto curiosa di vedere la Juve, che ha perso tanto tempo. Ecco, non sono d'accordo con Fabrizio sul fatto che comunque, secondo me, la partita deve vincere la Juve. Questo può essere un vantaggio per l'Inter. La Juve deve vincerla, perché il discorso che fa Allegri sul fatto che ne parliamo a marzo è il discorso giusto da fare per non caricare di leggete la classifica leggete la classifica e fate due conti. Solo di una cosa sul Milan, cioè, dilla. No, sì. che ci sono delle responsabilità, secondo me, dell'allenatore. Quest'estate io non ho visto manifestazioni di piazza contro Galliani, Berlusconi e la società. Sì, c'è stata un po' di delusione perché non è arrivato con Doppia, ma se vogliamo dire che il Milan è in questa situazione perché non c'è con Doppia, secondo me non siamo lontani dalla verità. Qui c'è una squadra e un progetto che non decolla, e quindi ci sono responsabilità, diciamo, anche tecniche. È stata fatta una scelta che è quella di Mihajlovic, che qui non sta funzionando. Poi siamo all'inizio, io auguro a Mihajlovic di venirne fuori, però ecco, aspettarci qualcosa di più da lui è fondamentale. Però nel momento nel quale tu ti aspetti qualcosa di più da lui, penso anche che allora sgravi di un po' di responsabilità anche i dirigenti, perché insomma, no? Ma sì, il solito gioco delle parti, dai, Pierluigi. Non è che hai preso un allenatore scarso che non voleva nessuno. È il solito gioco delle parti, che non voleva nessuno. Hai preso giocatori buoni e un allenatore strapromettente che non stanno funzionando. Certo, sono d'accordo. Ciao Pierluigi. Ciao. Allora, dopo questa pausa, invece, io vi racconto, vi faccio raccontare meglio perché la Juventus questa sera vincerà a San Siro. Ok? State con noi. Domani, per la prima volta, più o meno, ho quasi tutti i giocatori a disposizione. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Tutti convocati. Convocati. Pronto? Ciao Valeri, sono Luciano. Sì, io sto bene. E tu come stai? Sì, sì, tutto a posto. Ma no, ma giovole una barzelletta. Non è mai esistita. E poi è ora di finirla con questo giornalismo spazzatura. Senti, Valeri, sei in forma per stasera? Partitone. No, io volevo avvertirti, e ti ho telefonato per questo, che a Milano c'è molta umidità, c'è la nebbiolina, e soprattutto nell'area dell'Inter si cade con una certa, come dire, facilità. Non so se mi spiego. Sto scherzando, Valeri, sto scherzando. Non mi permetterei mai di provare a chiederti rigori a favore che non ci sono, ma figurati, io li esigo e basta. Oh, sto scherzando, Valeri. Comunque il regalino te l'ho mandato, spero ti piaccia. Ciao, ciao. Questo è Luciano Moggi, eh? Non è Andro Mercù. Luciano Moggi questo. Parliamo di Inter Juventus, dunque 800240024. Abbiamo fatto alcune considerazioni. In realtà è la Juventus che deve vincere questa partita, ma basta leggere la classifica. È chiaro che l'Inter non può permettersi di perderla, ma sto dicendo delle clamorose e colossali banalità. Dovesse essere pareggio, insomma, starebbe meglio, secondo me, all'Inter. Secondo Andrea Sorrentino, da Repubblica non lo so. Buonasera, ovviamente anche per me è così. L'Inter ha due risultati su tre. Sì. Perché con un pareggio rimane lì, non si rivela un soufflé come molti temono. Bravo. Che stasera la Juventus possa non si macchia il vestito. Non sto, esatto, dicendo quello bianco, eh. Me ne guardo bene, non sto dicendo lo smoking bianco, me ne guardo bene. No, ma l'Inter, no, però l'Inter, chiaramente l'Inter, ragazzi, l'Inter arriva a questa deve partita, deve fare almeno un punto, dai. No, come, scusa? Deve fare almeno un punto. Deve fare almeno un punto, perché arriva a questa partita con qualche sicurezza, con qualche baldanza un po' rigata dalle ultime due partite, quindi deve confermarsi. Di là c'è una Juventus che con Marchisio e dire Pogba comincia ad avere una fisionomia, una faccia vicina per gli avversari, una faccia, sì, vicina a quella definitiva, esatto, sì, cioè, sì, quella definitiva, quella che poi avevano pensato in estate, ecco, esattamente, è esattamente, è quella che è mancata finora. E sappiamo che se non c'è il centrocampo che fa il suo lavoro, nessuna squadra è al sicuro, soprattutto a livello di copertura difensiva. Infatti la Juventus ha sofferto molto in difesa quest'anno, ha preso molti gol, cosa che non le succedeva negli anni scorsi, anche perché ogni squadra si valuta in base alla sua tenuta difensiva prima di tutto, poi viene il resto, e la Juventus con questo centrocampo si sistema un po' meglio. Non sappiamo ancora le formazioni ufficiali, vedremo un po', ci sono molte più incertezze nell'Inter. Io credo che Mancini cercherà di andare con i suoi, con quelli che ha avuto fino adesso, e quindi proverà comunque con la difesa con Telles, il centrocampo con Kondogbia, credo almeno, poi tra poco sapremo le formazioni ufficiali. Dipende anche molto dalle condizioni di Jovetic, che rischia di non essere in campo dal primo minuto perché non si è allenato a lungo con la squadra, quindi sì, Andrea, tu guarda la magia delle spugnature, cioè Insigne che è tornato alla nazionale perché aveva la bua, certo, e oggi ha messo un gol da favola, certo. Guarda, vabbè, Marchisio che rientra oggi, giustamente, che dire, Morata, insomma, Pogba, no? Tutta gente, sì, arrivata mezza morta dalle trasferte con le nazionali, che guarda caso, magia delle spugnette magiche dei dottori, saranno regolarmente in campo. Il famoso virus FIFA, diciamo, che inquieta molto, certo, durante le pause delle nazionali, ma poi sparisce quasi sempre quando ricomincia l'attività dei club. Questo è abbastanza normale, dai, è abbastanza normale. Però tutti d'accordo, sul fatto che sarà la Juventus a dover fare la partita? Beh, sai, in questo io poi ho qualche dubbio. Secondo me tutte e due cercheranno di farla e vedremo chi prevarrà, perché l'Inter, come sua fisionomia di quest'anno, cerca sempre di fare la partita, di imporre la sua iniziativa, anche se nelle ultime partite ha ritmi un po' troppo lenti. Però l'Inter ha sempre, tranne che con la Fiorentina, che fu una partita molto particolare, l'Inter ha sempre dominato il possesso palla in tutte le partite che ha giocato quest'anno, sempre oltre il 60%, quindi è una squadra che in teoria potrebbe prevalere sul piano del palleggio contro la Juve. Sì, ma è un macchinone molto lento, Sì, sì, sì, io soprattutto a Genova, ripeto, lasciamo stare la partita con la Fiorentina che fu molto particolare, ma soprattutto a Genova con lo Samp ho visto un'Inter molto faticosa nel bravo. Molto pesante. Esatto, e quello mi aveva fatto pensare, non so, delle cose un po' negative. Poi c'è stata la sosta, oggi c'è Inter-Juve e capiremo molto molto di più, perché poi non sarà decisiva, ma queste sono partite che segnano in qualche modo sempre le stagioni, e quindi si parrà la nobilità un po' di tutti. Vediamo un po', sono molto curioso. A naso avverto una leggera preferenza per la Juventus, però sì, anch'io. Aspettiamo. Stefano da Pescara è in linea, non lo so, ma glielo chiediamo subito. Sì, buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione, innanzitutto. Muchas gracias. Poi volevo dire la mia sulla partita di questa sera. Dunque, secondo me questa sera la Juventus, con la vera ossatura, finalmente alla prima in campionato, asfalterà secondo me l'Inter. Asfalterà e tanta roba. Sì. Asfalterà e tanta roba. Sì, secondo me sì, perché questa sera la Juve avrà finalmente i veri pezzi da 90 e si potrà permettere una signora partita. Allora, se la Juventus asfalta l'Inter, domani è un lunedì interessante sul fronte degli interisti, perché l'Inter è già stata asfaltata, come dice lei, dalla Fiorentina. Dovesse la Juventus asfaltare l'Inter, domani ci divertiamo, no, Andrea Sorrentino? Insomma, non si diverte nessuno all'Inter. Tra l'altro domani c'è anche un importante appuntamento per il club, se forse sapete c'è un'assemblea dei soci in cui sì, ho letto quanto è scritto. Parlerà della sua, insomma, della fase finanziaria del club, che vive insomma un periodo un po' particolare tra gente che se ne va, gente che forse viene, ma forse no. Insomma, è un momento particolare per l'Inter. Arrivano petrodollari? No, guarda Carlo, in realtà questa cosa è ancora abbastanza ammantata dal mistero. Ci sono due certezze. No, perché per dire, scritto su Repubblica, a tua firma, Moratti potrebbe cedere il suo 29.45% di quote, interessato un grande finanziatore del Golfo. Sì, la situazione è questa. La certezza è che Moratti vuole cedere le quote, e di questo abbiamo dato conto su Repubblica ieri mattina. E questa è la notizia principale. La seconda è che l'uscita di Moratti dal club provoca un problema a Toir, perché queste quote qualcuno deve prenderle, il loro valore non è quantificabile con certezza, potrebbe essere una cifra intorno ai 50 milioni, diciamo così, quel 30% di Moratti. Sì. Toir non può rilevare le quote, sia perché non gli interessa nulla, perché già controlla il club, sia perché non ha 50 milioncini pronta cassa da versare alla causa. E quindi il problema dell'Inter in questo momento è cercare nuovi soci. Nelle ultime settimane ci sono stati vari contatti, sia con possibili finanziatori del marchio che rileverebbero la Pirelli, sia per quanto riguarda queste quote societarie. Ci sono stati degli incontri, dei contatti, non con fisicamente con dei petrodollari, come dici tu, comunque con dei rappresentanti di grandi aziende del Golfo Persico, ma ci sono stati incontri con mediatori, la cui entità, la cui credibilità, la cui insomma serietà è tutta da verificare in questo momento. Quindi è una fase molto liquida, molto fluida, in cui ci sono molte cose delicate da far andare a posto. Di sicuro all'Inter in questo momento si apre di nuovo un problema di liquidità e di investimenti, perché l'uscita di Moratti apre un problema. Apre degli scenari, Moratti, certamente. Sì, apre degli scenari. I motivi per i quali Moratti sta lasciando le quote poi sono vari, ma comunque il fatto è questo, ed è questo il fatto centrale. Poi vedremo cosa si raggrumerà intorno all'Inter. Intanto, c'è anche l'ipotesi araba, ovviamente. Sì, intanto per prima cosa vediamo come va Inter-Juventus di questa sera. Andrea, grazie. Grazie, sì, Andrea. A voi, a presto. Ciao. Ciao, Andrea Sorrentino. Ci fermiamo per il traffico? Poi che abbiamo? Ah sì? Ah, c'è Serse Cosmi. Va bene, traffico. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Convocati. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Uno step di distanza, gabbiano, vattene, no. Preso di testa, mi dispiace, no. Povero gabbiano, sì, è stato distratto, immagino che abbia anche preso un grande colpo Andrea Iannone. Nella storia non so quante volte un pilota sia stato alleato di un povero gabbiano martire. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Complimenti per la reattività col povero gabbiano, sì, sì. C'hai il mirino sulla testa, l'hai abbassata e l'hai preso pieno, fortunatamente credo non hai preso, non so, fa male un gabbiano a quella velocità oppure è un attimo? Ma ho sentito boom, però non ho sentito dolore, no, è stato un momento, è stato veramente tutto velocissimo. Io sono così, non mi posso fermare, quando dico che ti avrò. Il falco e il gabbiano. Come dice Andrò Mercurio? Ma no, io posso semplicemente. No, io sono un grande ammiratore di Ruggeri, però insomma. Ma francamente io penso al Trapani, quindi devo vedere i problemi di casa mia. I panni sporchi si lavano nella propria lavatrice, questo è il detto che perfetto. Si dice a Trapani. Allora sentiamo Roberto Ungaro, direttore di Riders, che invece ci parla del falco e del gabbiano. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Mica male prendere un gabbiano in faccia, Bruttissima mamma scena mia. Perché sembrava una brutta scena tra esseri umani. Sembrava che gli avesse proprio dato un colpo, una pestata, sì. Come si fa quando non è che si bisogna fare, ma si vede fare purtroppo quando si mira ai setti nasali. Invece lui si è schernito, si è abbassato, è un gesto distinto, ma la regia ha fatto proprio, quasi sembrava che lui gli volesse dare questa testata. Povero gabbiano, pensate a quella velocità, con quella concentrazione, cosa poteva accadere. Per fortuna non è successo niente, non ha cambiato le carte in tavola. Comunque grandissima gara, ha cambiato le carte in tavola invece Orly, sì. Lorenzo, sì, perché dietro quattro... a Marquez, davanti a Iannone, sì. E Rossi che mantiene 11 punti, ma 11 non sono 18. Ne ha pagati 7, li lascia giù, in questa che è stata la gara più bella della stagione, la più sorpassa in grande quantità, del resto questa è una pista che li agevola. E poi c'è un'inquadratura che è davvero magica, vedevi le linee quasi precarie, un po' per il vento perché è affacciata all'oceano, ma anche perché lì c'è una regia delle inquadrature che sono meravigliose. Sembra di essere tornati alle gare degli anni 90, quando c'erano quattro americani che si sfidavano a sportellate, davvero la più bella della stagione. I fantastici quattro lì davanti, una sorpresa Iannone super con una Ducati super. L'anno prossimo chissà se il regolamento agevolerà ancora così, comunque sul motore è schiacciante quanto vada più forte, bravo Gigi Dall'Igna, si è messo di mezzo, ha fatto perdere parecchio tempo a un Valentino che è tornato a sbagliare le qualifiche perché ultimamente le aveva azzeccate e partiva davanti, qui ha pagato pegno e quindi deve risolvere il problema del sabato, perché è bene per lui che si chiuda il discorso in Malesia, cioè nel prossimo appuntamento, perché Valencia non è la sua pista e c'è già un precedente, ricorderete, con Hayden quando perse il mondiale all'ultima gara, addirittura arrivò là in vantaggio, mi sembra 8 punti, era il 2003, l'ultimo anno delle onde. E poi c'era stata anche una questione della fornitura delle gomme, un po' di insomma, però Valencia è troppo rischioso arrivare all'ultima gara in quella pista in casa degli spagnoli, anche perché è una pista stretta e facile il contatto e gli spagnoli possono giocare un po' non tra loro di squadra, però può succedere davvero facile il contatto, quindi la Malesia, che è la sua pista, lì dovrebbe chiudere il discorso. Rimane grande gara, gare così, ragazzi, questa è la MotoGP che ci piace vedere. Questa è la MotoGP che ci piace vedere. È chiaro che ci piacerebbe vedere in Malesia Rossi che vince il titolo e lui è il più intelligente, quell'altro è più veloce, però avete visto Lorenzo davanti dall'inizio al penultimo giro, poi a quell'altro gli si è chiusa la vena, è tornato a guidare come lui sa fare. Del resto, quando c'è da entrare sacco di tempo che te lo dico, Roby, questi sono gli arbitri. Marquez fa l'arbitro del mondiale. Esatto, è lui l'ago della bilancia. E quando si spigola, quando si entra, lui col freno di traverso guida quasi come fosse un supermotard, lì è imbattibile. L'importante è non lasciargli il varco. Lorenzo gliel'ha lasciato e l'ha infilato come un somaro. Ci fosse stato lì Valentino, forse l'avrebbe giocato più di testa e non gli avrebbe lasciato neanche quei 20-30 centimetri per potersi infilare. Però non dimentichiamoci del sorpasso, che rimarrà un sorpasso icona di Iannone, perché giù dal tornantino ne ha passati due. Questo è da Cineteca. Ne parleremo, perché ne parleremo e come, Robin. Perché è stata una gara una gara meravigliosa che prelude, tutti ci auguriamo, a un Gran Premio della Malesia nel quale, vabbè, diciamo niente, va. Facciamo gli scaramantici, tocchiamo ferro, Roberto Ugo. Godiamocela e basta, senza, perché è questo lo spettacolo del MotoGP. Comunque ripeto, gara più bella della stagione. Sono d'accordo. Grazie, però, Roby. A te, buon lavoro. Grazie, ciao. Roberto Ugo, direttore di Riders. Terza Cosmi, siamo ai pronostici. Mi avete interpellato e non voglio sottrarmi alle vostre domande, anzi sono molto orgoglioso. E quindi magari vediamo cosa succede questa sera in questo big match nel Derby d'Italia tra l'Inter e la Juventus. Vediamo cosa succede. Sono orgoglioso di dirvi quello che io penso che succede questa sera. Direi che il match winner della serata sarà Ljajić. Non gioca. Ah sì. Vabbè, comunque sarà decisivo Nagatomo. Non gioca, o meglio dovrebbe andare in banchina. Vabbè, per la Juventus l'uomo partita sarà Lichtsteiner. Faccia il bravo, Sergio. Lichtsteiner è fuori da quasi un mese, ha problemi. Capisco. Vabbè, e chi vince? E che cazzo ne so, non sono mica Otelma. E questo a prescindere. Grande Andro Mercù, ci fermiamo qui. Grazie a Claudia Schiattone, la nostra autrice, e a Paolo Corleone, Andrea Roccabella, che sono avvicendati in regia. Ci sentiamo con tutti i convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao. Bellissimo spettacolo di sport. Bravo.